Allora, Ave Maria a tutti. Stasera abbiamo un'altra grande figura biblica mariana, quindi un'altra figura tipologica mariana, che è la regina Ester. E vedremo la storia avvincente di Ester, ecco, degna indubbiamente di nota e di venerazione. Il sottotitolo che gli ho dato è la provvidenza di Dio e la potenza della preghiera, perché gli insegnamenti, diciamo, della storia di Ester, lo diciamo un po' come prologo, un po' come ouverture, sono in questo senso, cioè una serie di eventi apparentemente strani sono in realtà disposti da Dio per ottenere dei beni grandi o dei beni maggiori. E le situazioni disperate, apparentemente umanamente ineluttabili e angosciose, ecco, possono e devono essere affrontate attraverso la potenza della preghiera. Vi pronuncio subito che Ester è figura di Maria, oltre che per la bellezza, come già Giuditta, perché la Madonna era bellissima, anche per la potenza della preghiera, quindi la potenza della preghiera di intercessione che Ester eleva a Dio insieme allo spirito di penitenza. Qualche piccola nota introduttiva è che ci troviamo, da un punto di vista storico, ambientati questa volta in Persia. Allora, se vi ricordate, Tobia era ai tempi della dominazione assira. Il libro di Giuditta, da un punto di vista storico, fa un po' di confusione, nel senso che parla di Nabucodonosor, che era un imperatore babilonese, quindi la seconda fase di dominazione straniera ebrea, però lo colloca come se fosse in Assiria. Ecco, qui sicuramente ci troviamo nel V secolo, quindi sotto la dominazione persiana, perché vi ricordate il contesto storico, e qui il re, come vedremo, è chiamato Assuero, principalmente in una delle due versioni, adesso lo vedremo subito, oppure Artaserse, penso che ce lo ricordiamo dai libri di storia. Assuero è Artaserse. Ecco. Ora, la prima notazione, non vi entro nei perché questi perché non sono utili all'edificazione, quindi in quanto inutili li possiamo tranquillamente glissare. Allora, di questo libro ci sono pervenute due redazioni, una ebraica e una greca. Noi chiaramente seguiremo quella greca, che è quella della 70, e che rispetto a quella ebraica contiene alcune parti in più. Adesso non entriamo sui meandri del perché, del per come, del per quando, perché sono questioni abbastanza accademiche, di non molto giovamento, e su cui ci sono soltanto una serie di ipotesi, alcune più conclamate, altro meno, ma che, come ripeto, non interessano ai fini dell'edificazione. Sapete che gli spiriti di questi incontri sono certamente una conoscenza corretta dei fatti e delle vicende della Sacra Scrittura, però sempre finalizzate a scopo di crescita, a scopo paparenetico, ad alimento della nostra fede e a crescita della nostra relazione personale con Dio, della nostra obbedienza a Lui, eccetera. Quindi andiamo a vedere, il primo capitolo comincia con il primo capitolo, versione greca, quindi nella versione ebraica non si trova. Comincia con un sogno di Mardocheo. Mardocheo era, vedremo adesso, era uno zio di Ester, e è molto importante leggere questo sogno, perché poi vi preannuncio che alla fine del libro Mardocheo ne darà un'interpretazione leggermente. Adesso qui già c'è qualche piccolo segnale, però vedremo poi al termine del libro l'interpretazione che ne dà Mardocheo in persona. Scusate i colpi di tosse che ci saranno ogni tanto, perché qui sono i segni della temperatura polare. Ma no, quello è stava lo stesso. Nel secondo anno di regno del grande re Artaserse, il giorno primo di Nisan, Mardocheo, figlio di Gairo, figlio di Simei, figlio di Chis, dovreste ricordarvi Chis, Chis era il padre di Saul, della tribù di Beniamino, ebbe in sogno una visione. Egli era un giudeo che abitava nella città di Susa, un uomo ragguardevole che prestava servizio alla corte del re e proveniva dal gruppo degli esuli che Nabucodonosor, re di Babilonia, aveva deportato da Gerusalemme con Geconia, re della Giudea. Poi quando faremo il profeta Geremia, quando ci arriveremo, se Dio vuole, approfondiremo tutti quanti questi episodi. Questo fu il suo sogno. Ecco, grida, tumulto, tuoni, terremoto, sconvolgimenti sulla terra. Ed ecco due enormi draghi avanzarono tutti e due pronti alla lotta. E risuonò potente il loro grido. Al loro grido ogni nazione si preparò alla guerra per combattere contro il popolo dei giusti. Ecco, un giorno di tenebre e di caligine, tribolazione e angustia, afflizione e grandi sconvolgimenti sulla terra. Tutta la nazione dei giusti rimase sconvolta. Essi, temendo la propria rovina, si prepararono a morire e levarono a Dio il loro grido. Ma dal loro grido, come da una piccola fonte, sorse un grande fiume con acque abbondanti. Apparvero la luce e il sole, gli umili furono esaltati e divorarono i superbi. Qui c'è tutta la storia del libro di Ester. Chi lo conosce, dopo alla fine lo interpreta Mardochio, chi conosce il libro di Ester e quindi che ha già le chiavi di lettura, capisce già benissimo tutte quante le simbologie contenute in questo sogno. Mardocheo allora si svegliò. Aveva visto questo sogno e quello che Dio aveva deciso di fare, e in cuor suo continuava a ripensarvi fino a notte, cercando di comprenderlo in ogni suo particolare. Mardocheo alloggiava allora la corte con Gabbatà e Tarra, i due eunuchi del re che custodivano la corte. Intese i loro ragionamenti, indagò sui loro disegni e venne a sapere che quelli si preparavano a mettere le mani sul re Artaserse. Allora ne avvertì il re. Il re sottopose i due eunuchi a un interrogatorio e si confessarono e furono tolti di mezzo. Poi il re fece scrivere questi fatti nelle cronache e anche Mardocheo li mise per iscritto. Il re costituì Mardocheo funzionario della corte e gli fece regali in compenso di queste cose. Ma vi era anche Aman, figlio di Amadata, il bugeo, che era molto stimato presso il re e cercò il modo di fare del male a Mardocheo e al suo popolo per questa faccenda che riguardava i due eunuchi del re. Dopo queste cose, al tempo di Artaserse, quell'Artaserse che regnava dall'India sopra 127 province, proprio in quel tempo il re Artaserse, che regnava nella città di Susa, l'anno terzo del suo regno, qui siamo cassati al primo capitolo, fece un banchetto per gli amici e per quelli delle altre nazionalità, per i nobili dei persiani, dei medi e per i profeti delle province. Siamo passati qui, avete visto che la numerazione del testo greco è con, c'è sempre il versetto 1 e poi con le lettere dell'alfabeto, quindi quando vedete A, B, C, D, E, F, G, H, I, lo vedremo tante volte, è il testo greco. Invece quando l'ordine dei versetti segue i numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 è il testo ebraico. Allora, nel primo capitolo compare Artaserse o Assuero, come volete, e la regina Vasti. Non è necessario, diciamo, leggerlo tutto quanto. Allora, che cosa succede? Vasti era la moglie di Assuero Artaserse e a un certo punto fa un grande sfregio al re. Cioè, il re a un certo punto decide di fare un banchetto, però chiama la moglie per mostrarla e la moglie non ci va. Gravissimo oltraggio al re, possiamo leggere insomma, il versetto tanto per far 10, 11 e 12. Il settimo giorno il re, euforico per il vino, ordinò ad Aman e agli altri sette eunuchi di far venire davanti a lui la regina per intronizzarla, ponendole sul capo il diadema e per mostrare ai principi e alle nazioni la sua bellezza. Era infatti molto bella. Ma la regina Vasti si rifiutò di andare con gli eunuchi. Il re ne fu addolorato e irritato e disse ai suoi amici: così e così ha parlato Vasti, giudicate dunque secondo la legge e il diritto. Giudicano secondo la legge e il diritto. E dicono: la regina Vasti ha mancato non solo nei confronti del re, ma anche nei confronti di tutti i principi e i capi del re. Se dunque sembra bene al re, vado un po' nel versetto 19, si è emanato un decreto reale secondo il quale la regina non possa più comparire davanti a lui e il re conferisca la dignità a una donna migliore di lei. Viene emanato l'editto e Vasti viene spodestata dalla carica di regina. E ora che cosa succede? Secondo voi che succederà? Succede che Ester diviene regina. come si narra nel capitolo 2 che adesso andiamo a vedere. Vedete nell'icona lì sulla destra c'è il re Artaserse che pone la corona in testa a Ester. Allora, che succede? Il re si calma e dice: adesso dobbiamo trovare una degna regina. Allora, convochiamo tutte quante le fanciulle vergini che sono qui, e le presentiamo al re e vediamo su quale di queste donne cadrà il favore del re. Diciamo qualcosa dal versetto 5. Nella città di Susa c'era un giudeo di nome Mardocheo, il quale era stato deportato a Gerusalemme, questo lo sappiamo. Aveva una figlia adottiva, figlia di Aminadab, fratello di suo padre, quindi una nipote, che si chiamava Ester. Quando erano morti i suoi genitori, egli l'aveva allevata per prenderla in moglie. La fanciulla era bella d'aspetto, e quando il decreto del re fu pubblicato, molte fanciulle furono raccolte nella città di Susa sotto la sorveglianza di Gai. Anche Ester fu condotta da Gai, custode delle donne. La fanciulla gli piacque e trovò grazia presso di lui, ed egli si preoccupò di dare gli unguenti e la sua porzione di cibo, oltre alle 7 fanciulle assegnate a lei dalla reggia, e usò verso di lei e le sue ancelle un trattamento di favore nell'arem. Ester non disse nulla, né del suo popolo né della sua stirpe, perché Mardocheo le aveva ordinato di non dirlo. Mardocheo passeggiava ogni giorno lungo il cortile dell'arem per vedere che cosa fosse accaduto a Ester. Insomma, saltiamo un pochettino. Quando per Ester si compì il tempo, versetto 15, di entrare dal re, ella nulla tralasciò di quello che le aveva ordinato l'eunuco, il custode delle donne. Entrò dal re Artaserse nel 12° mese. Il re si innamorò di Ester e la trovò grazia più di tutte le fanciulle, e perciò egli pose su di lei la corona regale. Poi il re fece un banchetto, eccetera. Mardocheo prestava servizio nel palazzo. Ester non palesò la sua stirpe. Mardocheo infatti le aveva raccomandato di avere il timore di Dio e di osservare i suoi comandamenti, come quando stava con lui. E Ester non cambiò il suo modo di vivere. Quindi per ora tutto calmo, tutto bello e tutto tranquillo. Ora, nella seconda parte del capitolo 2 e fino al capitolo 3 compare ricompare questo losco figuro che era stato appena nominato, Aman, in disputa, adesso vedremo subito, con Mardocheo. Allora, andiamo avanti. Dopo questi avvenimenti, il re Artaserse onorò grandemente Aman, figlio di Amadata, il Bugeo. Lo elevò in dignità e fra tutti i suoi amici lo faceva sedere al primo posto. Tutti quelli che stavano nel palazzo si prostravano davanti a lui, poiché il re aveva ordinato di fare così. Ma Mardocheo non si prostrava davanti a lui. Allora quelli che stavano nel palazzo dissero a Mardocheo: Mardocheo, perché non ascolti i comandi del re? Essi glielo dicevano giorno dopo giorno, ma egli non li ascoltava. Allora fecero presente ad Aman che Mardocheo trasgrediva gli ordini del re. Mardocheo inoltre aveva rivelato loro di essere un giudeo, ma Aman, accortosi che Mardocheo non si prostrava davanti a lui, si indignò grandemente e decise di sterminare tutti i giudei che si trovavano sotto il dominio di Artaserse. Fece un editto nell'anno 12° del regno di Artaserse. Attenti a questo particolare, tirò a sorte il giorno e il mese per sterminare in un solo giorno il popolo di Mardocheo. La sorte cade sul 14° giorno del mese di Adar. Adar, per chi non lo sapesse, è il mese di marzo. Allora disse al re Artaserse: c'è un popolo disperso tra le nazioni in tutto il tuo regno, le cui leggi differiscono da quelle di tutte le altre nazioni. Essi disobbediscono alle leggi del re e non è conveniente che il re glielo permetta. Se piace al re, dia ordine di ucciderli e io assegnerò al tesoro del re 10.000 talenti d'argento. Il re prese il suo anello, lo dette in mano ad Aman per mettere il sigillo sui decreti contro i giudei. Il re disse ad Aman: tieni pure il denaro e tratta questo popolo come vuoi tu. E poi lo fanno. Vi faccio notare un piccolo particolare che è un po' un fuoricampo. Notate il particolare dell'anello. prende l'anello per mettere il sigillo su un ordine del re. Vi ricordate la parabola del figlio il prodigo nel Vangelo? Mettetegli l'anello al dito e calzare i piedi. Avere l'anello del padre voleva dire avere capacità di disporre del potere del padre e del patrimonio del padre. Quindi quando il fratello maggiore si arrabbia, noi facciamo subito a dire: ma guarda, questo non c'ha misericordia. Dice, ma quello aveva dilapidato il patrimonio in prostitute, e il padre quando torna gli dà l'anello, dice: non ti è bastata ancora. Quindi questo per far capire come Dio, quando siamo pentiti, il perdono comporta anche il ridare fiducia alla persona. Chiusa parentesi, completamente fuori coda e fuori campo, però non ho saputo resistere quando ho visto questa cosa che mi è venuta in mente e volevo condividerla. Allora, niente, qui a un certo punto poi ci sta questo editto, editto che ordina lo sterminio del popolo di Israele, occasionato semplicemente, come vedete, dalla megalomania di questo luogotenente di Artaserse, che pretendeva, come tutti quanti i megalomani dalla terra, che qualcuno chinasse le ginocchia davanti a lui. State attenti a questo verso, vedete, questo verso del chinare le ginocchia, su cui tante volte, come sapete, io sono tornato. Bastava che Mardocheo chinasse le ginocchia, ma non l'ha fatto, e ha scatenato la persecuzione contro il popolo di Israele. Noi dobbiamo tenere presente che molti nostri padri e fratelli cristiani sono morti semplicemente perché si rifiutavano di piegare le ginocchia davanti all'imperatore, perché piegare le ginocchia è un gesto che va fatto soltanto dinanzi alla divinità. Io piego le ginocchia dinanzi a chi è più grande di me, dinanzi a Dio. Si può chinare anche dinanzi a coloro che sono stati pieni della presenza di Dio, sulle tombe dei santi si può pregare in ginocchio, ecco, ma non dinanzi a un uomo folle e megalomane che è uguale a me e dinanzi a cui io non sono affatto tenuto a piegare le ginocchia. Siate sempre molto attenti che questi, io per esempio vi confesso una cosa, quando ero piccolino, non è una cosa molto molto edificante, dicevo, vabbè, quando sentivo queste storie, oppure i racconti dei martiri, che dice, i martiri non hanno voluto bruciare l'incenso davanti alla statuetta di Giove o di Marte e sono andati in mezzo ai leoni. E io dicevo, ma che problema c'è? Potevano pure bruciarla. Tanto io la brucio e poi dico, che me ne importa? La brucio e dico, ma tanto a me non me ne importa nulla. Cioè, non è che io ci credo a quello, tanto la brucio. Così come piegare le ginocchia, perché vuoi che ti faccio la sceneggiata? E che ci fa? Facciamo la sceneggiata, tu poi sei contento e io me ne vado. Io pensavo così, purtroppo, quando ero molto molto piccolino, perché pensare così è pensare male, perché significa non dare il giusto valore ai gesti che noi facciamo, sono molto importanti, perché i gesti corporali che noi facciamo, dal momento che siamo uomini, sono importantissimi, perché noi uomini comunichiamo, ci relazioniamo sempre attraverso il corpo. Noi non siamo il nostro corpo, ma noi siamo attraverso il nostro corpo, almeno fino a quando siamo in questa vita. E quindi in ciò che fa il corpo è contenuta la totalità della persona. Questa è una verità di fede molto molto importante. State attenti che la prima eresia, altre volte sicuramente me l'avrete sentito dire, però pazienza, ripetita iuvant, la prima grossa eresia comparsa nella storia della Chiesa fu quella dello gnosticismo, quella che nel libro dell'Apocalisse sono chiamati i Nicolaiti. Gli gnostici si autochiamavano da loro gli pneumaticoi, cioè gli spirituali. Cosa dicevano questi? Dicevano che tutto quello che sta scritto nella Bibbia, l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento, il Vangelo, va tutto bene, però la salvezza è riservata ad una cerchia ristretta di persone che hanno ricevuto delle illuminazioni particolari di tipo spirituale circa la verità e il mondo ultraterreno, che costituiscono la garanzia e la base certa di appartenere al numero degli eletti. Quindi tu ti salvi soltanto, per questo gnostici, gnosis in greco significa conoscenza, se vieni iniziato e hai accesso a queste verità misteriche sconosciute e più, e che sono praticamente la chiave d'ingresso nel paradiso. Sto semplificando in maniera stratosferica. Sapete cosa dicevano questi? Dicevano, La salvezza quindi è un fatto completamente spirituale, quindi il nostro corpo è completamente da disprezzare. Vedete poi la cosa satanica. Conseguentemente, se tu fai un peccato impuro, oppure se mangi come un porco, che gli fa? Sono cose che stanno in basso, noi abbiamo lo spirito elevato, capite? Quindi, quando uno fa lo spiritualista, diventa poi paradossalmente, cade paradossalmente in queste contraddizioni. La Chiesa e la rivelazione cristiana ha sempre difeso, San Tommaso d'Aquino poi l'ha formalizzata in maniera magistrale, l'unità sostanziale tra anima e corpo. Cioè, l'anima è ciò che viene direttamente da Dio, è indubbiamente dotata di maggiore dignità, perché noi parliamo e siamo esseri pensanti e dotati di libero arbitrio, perché abbiamo le facoltà spirituali che stanno nell'anima. Però il rapporto con il corpo non è secondario. Uno dei motivi per cui i peccati impuri sono tanto gravi è questo, perché lo spiega San Paolo: qualunque peccato l'uomo commetta è fuori del suo corpo, ma chi si dà alla fornicazione pecca contro il proprio corpo. Adesso lo dicono anche i nuovi padri eterni della terra, che sono gli psicologi, cioè per esempio che un'attività sessuale non è un fatto corporeo, c'è la totalità della persona che è coinvolta. Sapete, ci sono alcune problematiche di tipo sessuale legate sia all'uomo che alla donna, che non stanno mica nel corpo, stanno dentro la testa. Non so se capite che cosa sto facendo riferimento. Ecco, quindi questo per comprendere l'importanza di questi gesti. Questo ha scatenato l'inferno semplicemente perché si è rifiutato e non si può fingere. Cioè, quando noi facciamo un gesto esterno, non possiamo farlo fingendo, perché è un peccato molto grave. Cioè, non mi posso inginocchiare davanti a Mardocheo per finta, ad Aman per finta. Dice, vabbè, mo te faccio festa e contento, mi inginocchio, tanto a me di te non me ne importa niente. Non si può dire questo, perché quel gesto che tu hai compiuto è un gesto di adorazione, quindi tu facendo quel gesto hai adorato la persona. Non importa che tu ci avevi la riserva mentale di non farlo, quindi quello non si fa. Così come si fa quando c'è dinanzi qualcuno che deve essere adorato. Ecco, ogni riferimento a fatti e situazioni attuali è puramente, come sempre, voluto. Giusto? Ok. Adesso entriamo nel vivo della storia di Esther. E quindi nella campagna di persecuzione contro i giudei. Tipo, i giudei hanno sempre passato i guai. C'era qualcuno, perdonatemi una battuta, dice, beh, ma dopo che hanno messo in croce Gesù Cristo, ma mo questi poracci non hanno fatto niente ancora, perché nel VI secolo avanti Cristo, però i membri del popolo di Dio passano sempre un pochino di guai. Allora, qui vediamo nella slide, l'episodio che vedremo, che è l'ingresso di Esther al banchetto di Aman, però ci arriveremo con calma. Allora, abbiamo appena visto l'odio di Aman e il decreto di sterminio del popolo ebraico. Nel capitolo seguente, nel capitolo 4, si notano le reazioni abbastanza forti di Mardocheo e di Esther dinanzi a ciò, e l'andremo a vedere subito. Quando Mardocheo seppe quello che era accaduto, si stracciò le vesti, indossò un sacco, ancora, vedete? Sempre come fate tutti voi quando dovete ottenere qualcosa, e si cosparse di cenere. Le ceneri si avvicinano, quindi con tutte queste cose che abbiamo saputo, quest'anno prenderò le ceneri a manate, d'accordo? Non a pizzicate, quindi è una bella cosa, ecco, con un bel chilo di cenere in testa a cranio. Precipitandosi nella piazza della, già ho detto ieri al gruppo di coordinamento, a quelli che sono stati più cattivi il doppio. Ecco, quindi quando vedete uno proprio cosparso, c'era la pubblica infamia che era stato troppo cattivo. Precipitandosi nella piazza della città, gridava a gran voce: viene distrutto un popolo che non ha fatto nulla di male, Mardocheo. Sempre gentilissima Sabina. Venne fino alla porta del re e si fermò. Infatti non gli era consentito di entrare nel palazzo portando sacco e cenere, come San Francesco. Sapete la storia di San Francesco, che una volta le clarisse volevano sempre che andasse a parlargli, a predicare. Un giorno, la sapete la storia, sì, che va in monastero, stavano tutte pronte dietro la grata, dice: mo c'è San Francesco, ci fa una bella predica. Ha preso la cenere, ha fatto un bel cerchio di cenere, dopodiché si è seduto in mezzo al cerchio di cenere, se ne è messa un'altra bel po' sulla testa. Non mi ricordo se è stato in silenzio o ha recitato il Salmo 50, miserere mei Deus secundum magna misericordium tuam, e secondo moltitudine miserazionum tuarum dere iniquitates mea, dere iniquitate meam, e dopodiché se n'è andato. Che tutto muore suore, che se va e dice: ma io ho fatto una predica, cioè, meditate su quello che avete visto e sentito. Come su Facebook, che ieri abbiamo visto, hanno messo una foto di un francescano dell'Immacolata, che non so dove abita, con un metro di neve, completamente scalzo, senza manco i sandali, dentro la neve. Quindi quella è una grande predica. Sapete, San José Maria Escrivá ha sentito la vocazione quando ha visto un carmelitano scalzo, quando ancora i carmelitani scalzi erano scalzi veramente, e camminava scalzo nella neve. E lui poverino aveva nevicato, a un certo punto ha visto queste impronte e dice: oh signore, è successo qua? Ha visto questo e dice, capite? Quindi a volte ci sono le prediche mute con i segni forti. Quindi in ogni provincia in cui erano state pubblicate le lettere c'erano grida e lamenti, eccetera eccetera. Allora che succede? Che vanno le ancelle e gli eunuchi dal regino e gli parlarono. All'udire quel che era accaduto rimase sconvolto e mandò a vestire Mardocheo e a togliere il sacco, ma egli non acconsentì. Allora Ester chiamò il suo eunuco Acrateo, che stava al suo servizio, e lo mandò a chiedere informazioni presso Mardocheo. A un certo punto, versetto 8, gli dà la copia dell'editto promulgato nella città di Susa e riguardante la dura di istruzione perché la mostrasse Ester. E adesso attenzione, egli disse di ordinarle di entrare dal re per domandargli grazie e intercedere a favore del popolo. Dice: guarda che adesso qui stiamo nei guai. E gli dice: ricordati, aggiunse, dei giorni in cui eri povera, quando eri nutrita dalle mie mani, già che Aman, il quale ha avuto il secondo posto dopo il re, ha parlato contro di noi per farci morire. Invoca il Signore e parla al re in favore nostro perché ci liberi dalla morte. Sembrerebbe una cosa da nulla. Dice: vabbè, che problema c'è? Va dal re, ci parla. Ma c'è un problema, che adesso lo vedremo. Acrateo le riferì tutte queste parole. Ed Ester disse ad Acrateo: vada Mardocheo e digli: tutte le nazioni dell'impero sanno che chiunque, uomo o donna, entri dal re nel palazzo interno senza essere chiamato, non avrà scampo. Solo colui sul quale il re avrà steso il suo scettro d'oro sarà salvo. E io non sono più stata chiamata a entrare dal re già da 30 giorni. Per cui se entra, l'ammazzano. Acrateo riferì tutte queste parole di Ester. Mardocheo disse ad Acrateo: va a dirle, Ester, non dire a te stessa che tu sola potrai salvarti nel regno tra tutti i giudei, perché se tu ti rifiuti in questa circostanza, da un'altra parte verranno aiuto e protezione per i giudei, ma tu e la casa di tuo padre perirete. Chissà che tu non sia diventata regina proprio per questa circostanza? Vedete la provvidenza dell'Altissimo. Guardate che i riscontri che si hanno, se uno sta attento, della provvidenza dell'Altissimo sono assolutamente sconvolgenti. Ma anche nelle minime cose. Io non vi posso raccontare un'apparentemente sciocchezza che è successa oggi, che si sono incastrate una serie di circostanze, perché il Padre Eterno sapeva che oggi sarebbero successe alcune cose e che io avrei dovuto farne altre. Che se non si fossero incastrate alcune circostanze, come non era previsto che si incastrassero, perché io l'ho saputo stamattina alle 10:30, non avrei potuto gestirle. Appena Maria, sono state una serie di telefonate, una pressa all'altra, dico: ma tu guarda un po', ma tu guarda un po', ma tu guarda un po'. Veramente proprio. Ecco, poi quando uno sta nei guai, la provvidenza la tripla. Ecco, quando uno sta sempre un po', ecco, in così. Ester mandò da Mardocheo l'uomo che era venuto da lei, gli fece dire: va e raduna gli abitanti che abitano a Susa e digiunate per me. Quindi sacco cenere e digiuno. Per 3 giorni e 3 notti non mangiate e non bevete. Digiuno rigoroso, questo si chiama. Voi non fatelo, se no il padre spirituale vi sgrida, si fa più piccolo. Anch'io e le mie ancelle digiuneremo, allora contravvenendo alla legge entrerò dal re, anche se dovessi morire. Quindi questa è la situazione. E cosa succede quindi subito dopo? Quindi abbiamo due splendide... abbiamo la preghiera di Mardocheo, in 4.17a, e poi, ecco, diciamo il cuore, il clou del libro di Ester, la preghiera di Ester. Sono molto belle e molto edificanti. Questa è quella di Mardocheo. Signore, Signore, che domini l'universo, tutte le cose sono sottoposte al tuo potere e non c'è nessuno che possa opporsi a te nella tua volontà di salvare Israele. Tu hai fatto il cielo e la terra e tutte le meraviglie che si trovano sotto il firmamento. Tu sei il Signore di tutte le cose e non c'è nessuno che possa resistere a te, Signore. Tu conosci tutto, tu sai, Signore, che non per orgoglio, non per superbia, né per vanagloria ho fatto questo gesto di non prostrarmi davanti al superbo Aman, perché avrei baciato anche la pianta dei suoi piedi per la salvezza di Israele. Ma ho fatto questo per non porre la gloria di un uomo al di sopra della gloria di Dio. Non mi prosterò mai davanti a nessuno se non davanti a te, che sei il mio Signore, e non farò così per superbi. Spettacolare, eh? Fate attenzione a come cominciano sempre le preghiere sante. Le preghiere sante cominciano sempre con una lode di Dio e con una lode delle sue opere, sempre. Qui ancora non ha chiesto niente. Loda il Signore. Gli presenta la situazione problematica, perché lui si trova nei guai, e poi comincia la preghiera. Dopo: ora Signore, Dio, re di Dio di Abramo, risparmi il tuo popolo, perché guardano a noi per distruggerci e desiderano ardentemente far perire quella che è la tua eredità dai tempi antichi. Non trascurare il tuo possesso, che è redento per te dal paese d'Egitto. Ascolta la mia preghiera e sii propizio alla tua eredità. Cambia il nostro lutto in gioia, perché vivi possiamo cantare inni al tuo nome, Signore, e non far scomparire quelli che ti lodano con la loro bocca. Poi riprendetele queste cose e meditatele. Vi consiglio, ovviamente. Anche la regina Ester cercò rifugio presso il Signore, presa da un'angoscia mortale. Si tolse le vesti di lusso e indossò gli abiti di miseria e di lusso. Invece dei superbi profumi si riempì la testa di ceneri e di immondizie. Care signorine, ecco, mi raccomando, mettere in pratica. Umiliò duramente il suo corpo e con i capelli sconvolti coprì ogni sua parte che prima soleva ornare a festa. Poi supplicò al Signore e disse: mio Signore, nostro Re, tu sei l'unico. Vieni in mio aiuto, che sono sola e non ho altro soccorso all'infuori di te, perché un grande pericolo mi sovrasta. Io ho sentito, fin dalla mia nascita, insieme alla mia famiglia, che tu, Signore, hai preso Israele fra tutte le nazioni, e i nostri padri fra tutti i loro antenati, come tua eterna eredità, e hai fatto per loro tutto quello che avevi promesso. Ma ora abbiamo peccato contro di te e ci hai consegnato nelle mani dei nostri nemici, perché abbiamo dato gloria ai loro dei. Tu sei giusto, Signore. Ma ora non si sono accontentati dell'amarezza della nostra schiavitù, hanno anche posto le mani sui loro idoli, giurando di abolire il decreto della tua bocca, di sterminare la tua eredità, di chiudere la bocca di quelli che ti lodano e spegnere la gloria del tuo tempio e del tuo altare, di aprire invece la bocca delle nazioni per lodare gli idoli vani e proclamare per sempre la propria ammirazione per un re mortale. Non consegnare, Signore, il tuo scettro a quelli che neppure esistono. Non permettere che ridano della nostra caduta, ma volgi contro di loro questi progetti e colpisci con un castigo esemplare chi è a capo dei nostri persecutori. Ricordati, Signore, manifestati nel giorno della nostra afflizione e dà a me coraggio, o Re degli dei e dominatore di ogni potere. Metti nella mia bocca una parola ben misurata di fronte al leone e volgi il suo cuore all'odio contro colui che ci combatte, per lo sterminio suo e di coloro che sono d'accordo con lui. Quanto a noi, salvaci con la tua mano e vieni in mio aiuto, perché sono sola e non ho altri che te, Signore. Tu hai conoscenza di tutto e sai che io odio la gloria degli empi e detesto il letto dei non circoncisi e di qualunque straniero. Tu sai che mi trovo nella necessità e che detesto l'insegna della mia alta carica che cinge il mio capo nei giorni in cui devo comparire in pubblico. La detesto come panno immondo e non la porto nei giorni in cui mi tengo appartata. La tua serva non ha mangiato la tavola di Aman, non ha onorato il banchetto del re, né ha bevuto il vino delle libagioni. La tua serva, da quando ha cambiato condizione fino ad oggi, non ha gioito se non in te, Signore, Dio di Abramo. O Dio che su tutti eserciti la forza, ascolta la voce dei disperati, liberaci dalla mano dei malvagi e libera me dalla mia angoscia. Queste sono parole che si autocommentano e anche qui è un esempio di come si prega nelle circostanze difficili. In tante circostanze possiamo trovarci in situazioni analoghe a queste, quando dobbiamo prendere delle decisioni difficili, affrontare delle difficoltà. Forse capita più a me che a voi, non lo so, dover avere una parola misurata e essere prudenti e stare attenti dinanzi a situazioni che sono potenzialmente pericolose. Quindi questo è un esempio di tenete presente che Ester è figura della Madonna anche nel senso che elevata chiaramente in termini umani a dignità straordinaria, come abbiamo sentito, non ha perso la sua umiltà, né per questo si è, come dire, inebriata o inorgoglita, cambiando modo di vivere e dimenticando le sante abitudini del popolo di Dio. Non l'ha fatto, e anche in questo è figura di Maria Santissima. Ora, nel capitolo quinto avviene l'episodio, quindi Ester compare davanti al re, trova il coraggio, si fa forza, il re dà questo nuovo banchetto. Il terzo giorno, quindi, prega per 3 giorni e per 3 notti, si toglie gli abiti servili e si rivestì di quelli sontuosi. Fattasi splendida, invocò quel Dio che su tutti veglia e tutti salva e prese con sé 2 ancelle. Su di una si appoggiava con apparente mollezza, mentre l'altra la seguiva sollevando il manto di lei. Era rosea nel fiore della sua bellezza, il suo viso era lieto, come ispirato a benevolenza, ma il suo cuore era oppresso dalla paura. Attraversate le porte si fermò davanti al re. Egli stava seduto sul suo trono regale, rivestiva i suoi ornamenti ufficiali, era tutto splendente di oro e di pietre preziose e aveva un aspetto che incuteva paura. Alzato il viso che la sua maestà rendeva fiammeggiante, al culmine della collera la guardò. La regina cadde a terra, in un attimo di svenimento mutò colore e si curvò sulla testa dell'ancella che l'accompagnava. Dio volse a dolcezza l'animo del re. Ansioso balzò dal trono fino a quando ella non si fu rialzata e la confortava con parole rassicuranti dicendole: che c'è Ester? Io sono tuo fratello, coraggio, tu non morirai perché il nostro decreto è solo per la gente comune. Avvicinati. Alzato lo scettro d'oro, lo posò sul collo di lei, la baciò e le disse: parlami. Gli disse: ti ho visto, Signore, come un angelo di Dio, e il mio cuore è rimasto sconvolto per timore della tua gloria. Tu sei ammirevole, Signore, il tuo volto è pieno d'incanto. Mentre parlava cadde svenuta, il re si turbò e tutti i suoi servi cercavano di rincuorarla. Allora il re le disse: che cosa vuoi, Ester? E qual è la tua richiesta? Fosse pure metà del mio regno sarà tua. Mi ricorda qualcosa queste parole? Ester rispose: oggi è un giorno speciale per me. Se così piace al re, venga egli con Aman al banchetto che oggi io darò. Disse il re: fate venire presto Aman per compiere quello che Ester ha detto. Ambedue vennero al banchetto di cui aveva parlato Ester. Mentre si beveva, il re, rivolto a Ester, disse: che cosa c'è, regina Ester? Ti sarà concesso tutto quello che chiedi. Rispose: ecco la mia domanda e la mia richiesta. Se ho trovato grazia davanti al re, venga anche domani Aman al banchetto che io darò per loro, e domani farò come ho fatto oggi. E quindi Aman era uscito dal re contento, euforico, ma quando nel cortile della reggia vide Mardocheo il giudeo, si adirò fortemente. Tornato a casa, chiamò gli amici e Zosa, la sua moglie, mostrò loro le sue ricchezze, il potere del quale il re l'aveva investito, gli aveva dato il primo posto e il governo del regno. Disse Aman: al banchetto la regina non ha invitato altri che me insieme al re, e io sono invitato per domani. Per questo non mi piace fin quando vedrò Mardocheo il giudeo nel cortile della reggia. Zosa, la sua moglie e gli amici dissero: fa preparare un palo alto 50 cubiti e domani mattina di' al re di farvi impiccare Mardocheo. Poi tu al banchetto con il re e stai al re allegro. La cosa piacque ad Aman e si preparò il palo. E adesso vediamo che cosa succede. Allora, abbiamo anzitutto questo secondo banchetto. Quindi ci abbiamo ancora Mardocheo e Aman, e poi Aman al banchetto di Ester. Allora, quella notte il Signore tolse il sonno al re, che perciò disse al suo precettore di portargli il libro delle memorie, le cronache, e di dargliene lettura. Egli vi trovò scritto riguardo a Mardocheo che egli aveva riferito al re che due eunuchi del re, nel fare la guardia, avevano cercato di aggredire Artaserse. Disse allora il re: quale onore o favore abbiamo fatto a Mardocheo? I servi del re risposero: non è fatto nulla per lui. Mentre il re veniva informato circa la benevolenza di Mardocheo, ecco Aman nel cortile della reggia. Allora il re disse: chi c'è nel cortile? Aman, venuto per dire al re di fare impiccare Mardocheo al palo che egli aveva preparato per lui. Allora il re disse ad Aman: no. E il re replicò: chiamatelo. Il re disse ad Aman: che cosa dovrò fare per l'uomo che io voglio onorare? Aman disse in cuor suo: chi il re vuole onorare se non me? E rispose al re: per l'uomo che il re vuole onorare, i servi del re portino una veste di lino che viene indossata al re e un cavallo che le suole cavalcare. Siano dati a uno degli amici del re fra i nobili e questi ne rivesta l'uomo che il re ama. Poi lo faccia salire sul cavallo e si annunci nella piazza della città. Così sarà per ogni uomo che il re intende onorare. Il re disse ad Aman: come hai detto, così fai a Mardocheo il giudeo, che si trova nel cortile della reggia, e non trascurare nulla di quello che hai detto. Aman prese la veste, il cavallo, rivestì Mardocheo, eccetera, e fanno questo. Poi Aman raccontò a Zosa, la sua moglie, e ai suoi amici quello che era accaduto. Allora gli amici e la moglie si rivolsero a lui con queste parole: se Mardocheo è della stirpe dei giudei, comincia ad abbassarti davanti a lui cadendo ai suoi piedi, tu non potrai resistergli, perché il Dio vivente è con lui. Quindi la moglie comincia ad avere un po' di paura, saputo che questo era giudeo. Adesso, subito dopo, al capitolo settimo, c'è il banchetto di Aman. Allora, nuovo banchetto. Il re ancora rifà quella famosa domanda e Ester stavolta risponde: se ho trovata grazia davanti al re, sia risparmiata la vita a me secondo la mia domanda e al mio popolo secondo la mia richiesta. Infatti siamo stati venduti, io e il mio popolo, siamo stati venduti per essere distrutti, uccisi e fatti schiavi, noi e i nostri figli per diventare servi e serve. Ma io finsi di non udire, perché quel calunniatore non è degno del palazzo del re. Disse il re: chi è costui che ha osato fare queste cose? Ester rispose: un nemico, Aman è quel malvagio. Aman fu preso da terrore in presenza del re e della regina. Allora il re si alzò dal banchetto per andare nel giardino. Aman si mise a supplicare la regina perché avvertiva di essere nei guai. Il re ritornò dal giardino e intanto Aman si era lasciato cadere sul divano supplicando la regina, in atteggiamento, come dire, ambiguo. Allora il re disse: vuole anche fare violenza a mia moglie in casa mia? Appena ebbe sentito, Aman mutò d'aspetto. Bugatan, uno degli eunuchi, disse al re: ecco, Aman ha preparato anche un palo per Mardocheo, il quale aveva parlato in favore del re. Un palo alto 50 cubiti, eretto nella proprietà di Aman. Disse il re: si è impiccato su quel palo. Allora Aman fu appeso al palo che aveva preparato per Mardocheo e l'ira del re si placò. Questo è l'episodio che segna l'inizio della rivincita. Allora, subito dopo, nel capitolo ottavo, prima c'è il decreto di riabilitazione del re molto lungo, dove il re, leggeremo forse qualche stralcio, riconosce la grandezza e la potenza del popolo di Dio. Prima del decreto di riabilitazione, la prima parte del capitolo ottavo, vengono fatti fuori su richiesta di Ester anche tutti i figli di Aman, così non c'era possibilità che si perpetuasse la razza. Leggiamo qualcosa del decreto della riabilitazione, qualche piccolo stralcio. Qui. Ora noi troviamo che questi giudei, versetto 12p, troviamo destinati da quell'uomo tre volte scellerato allo sterminio, non sono malfattori, ma sono governati da leggi giustissime, sono figli del Dio Altissimo, Massimo, Vivente, il quale in favore vostro e dei nostri antenati dirige il regno nel migliore dei modi. Farete dunque bene a non tenere conto delle lettere mandate da Aman, figlio di Amadata, perché costui che ha perpetrato tali cose è stato impiccato a un palo con tutta la sua famiglia alle porte di Susa, giusto castigo datogli rapidamente da Dio, dominatore di tutti gli eventi. A ricordo di questa disfatta e di questa vittoria viene poi istituita una delle ultime, ecco, non l'ultima in assoluto, feste liturgiche ebraiche, la festa dei Purim. Tenete presente che Pur in ebraico vuol dire sorte. Ecco, vi ricordate, Aman aveva scelto a sorte in quale giorno andare a fare la campagna anti-ebraica e poi la sorte gli si era rovesciata contro per intervento dell'Altissimo. Quindi nel capitolo 9 compare quest'ultima festa liturgica. Mardocheo scrisse queste cose su un libro e lo mandò ai giudei che venivano nel regno di Artaserse, vicino e lontani, per stabilire questi giorni festivi da celebrare il 14 e il 15 del mese di Adar. In quei giorni, infatti, i giudei ebbero tregua dai loro nemici, e quello fu il mese Adar nel quale essi passarono dal pianto alla gioia, dal dolore a un giorno di festa. Perciò esso deve essere considerato tutto quanto come un periodo di giorni festivi, di nozze ed esultanza, in cui si inviano doni agli amici e ai poveri. Tenete presente che Gesù è stato concepito nel mese di Adar, perché Gesù è stato concepito il 25 di marzo, il giorno dell'Annunciazione. E da alcune tradizioni sappiamo anche, molto probabilmente, che la vita pubblica, quindi la predicazione pubblica, quindi vi ricordate, il tempo delle nozze, possono forse invitare gli invitati a nozze a digiunare finché lo sposo è con loro, è iniziato nel mese di marzo. D'accordo? Sono tradizioni che ci si può credere o non ci si può credere, ecco, narrate anche da alcune persone che hanno avuto rivelazioni private da parte di nostro Signore. Perciò quei giorni furono chiamati Purim, versetto 26, a motivo delle sorti, perché nella loro lingua esse sono chiamate Purim, a motivo delle parole di questa lettera, che ricordava tutto quello che avevano sofferto e che era loro capitato. Mardocheo stabilì e i giudei approvarono per sé, per il loro discendente e per quelli che si fossero uniti a loro, che non si sarebbero comportati in modo diverso. Questi giorni dovevano essere un memoriale da osservare di generazione in generazione, eccetera. Ultimo particolare, dopo la festa dei Purim, è l'epilogo. Mardocheo spiega il sogno avuto all'inizio del libro. Vediamo. Ora, Mardocheo chiaramente viene fatto secondo rispetto al re, quindi prende letteralmente il posto di Aman. Mardocheo disse: queste cose sono avvenute per volere di Dio. Mi ricordo infatti del sogno che ebbi circa le cose di cui sto parlando. Neppure un loro dettaglio è stato tralasciato. La piccola sorgente che divenne un fiume, chi è? La luce che spuntò e il sole e l'acqua copiosa? Questo fiume è Ester, che il re ha sposato e costituito regina. I due draghi, in lotta, siamo io e Aman. E le nazioni sono quelle che si coalizzarono per distruggere il nome dei giudei. La mia nazione è Israele, quelli che levarono le loro grida a Dio e furono salvati. Sì, il Signore ha salvato il suo popolo, ci ha liberati da tutti questi mali. Dio ha operato segni e prodigi grandi, quali non sono accaduti mai tra le nazioni. Così egli gettò due sorti, i Purim, una per il popolo di Dio e una per tutte le nazioni. Queste due sorti si sono realizzate nel momento opportuno, nel giorno del giudizio, a cospetto di Dio e in tutte le nazioni. Dio allora si ricordò del suo popolo e rese giustizia alla sua eredità. Questi giorni del mese di Adar, il 14 e il 15 dello stesso mese, saranno celebrati con riunioni, gioia e letizia davanti a Dio di generazione in generazione per sempre nel suo popolo Israele. Quindi vedete che è un po' la storia del libro di Ester, è un po' sintetizzata da uno dei passaggi del Magnificat. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha rimandato i ricchi a mani vuote, e ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Ecco. La potenza, però, anche questo libro ci lascia come eredità, numero uno, un insegnamento, la coerenza della fede, cioè bisogna essere disposti a soffrire se ne va in gioco l'osservanza della legge di Dio, in particolare i comandamenti che riguardano il culto e l'onore dovuti a Lui solo. Uno. Numero due, la potenza e la forza della preghiera e della penitenza, fatta sia da Mardocheo che da Ester, che anche dall'ancella di Ester per ottenere la grazia. E tre, poi, il coraggio e la fede, perché quando noi dobbiamo intraprendere qualcosa di grande e di importante per amore di Dio, dobbiamo pregare, dobbiamo fare penitenza, ma poi dobbiamo avere anche un po' di coraggio. Ecco, Ester è figura della Madonna anche per il coraggio con cui ha affrontato, come del resto la volta scorsa abbiamo visto Giuditta, una situazione difficile. Il coraggio è una virtù fondamentale, perché è parte integrante della virtù della fortezza. Non si può essere cristiani senza essere coraggiosi, non dobbiamo avere paura e non dobbiamo essere timidi, mai e per nessun motivo. Non dobbiamo essere temerari, quindi non dobbiamo andare incontro gratuitamente a pericoli inutili, e dobbiamo sempre invocare la grazia di Dio. Ma poi dobbiamo agire senza paura, sapendo che Dio è con noi, c'è un disegno provvidente. Quindi noi dobbiamo semplicemente cercare di discernerlo, e in questo la sapienza di Mardocheo, che ha ricordato ad Ester che si era fatta prendere da un momento di smarrimento, dice: ma se entro dal re mi ammazza, dice, non ti preoccupare, è il Padre Eterno che ti ha messo in questa situazione, probabilmente ti ha fatto diventare re proprio perché tu eri colei che era stata scelta per impedire la distruzione del popolo di Israele. Questo ci fa anche comprendere, state attenti tutti, l'importanza di rispondere bene alla nostra vocazione. Ognuno di noi deve stare al proprio posto di combattimento, perché non stare al proprio posto di combattimento e non fare quello che Dio vuole da noi ha delle conseguenze non soltanto per noi, ma anche per persone che stanno e ruotano intorno a noi. Se Ester fosse stata egoista e avesse pensato soltanto a te, probabilmente il popolo di Israele avrebbe ricevuto, ecco, una grave mutilazione ben prima di quando poi purtroppo la storia gli avrebbe fatto conoscere guai, insomma, tremendi e terribili, ecco, di cui tutti ci rattristiamo, che abbiamo appena celebrato, ecco, e che speriamo di non dover mai più rivedere. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio.